e quindi queste persone si sarebbero offese perché tu hai accennato che l'eco non ti piaceva. Sì, ma scusa, se lui, a lui che cosa gliene frega che a te non piace? Ma non sono solo io, molta gente si è lamentata di quest'eco, solo che io non ho mandato via nessuno, quindi hanno mancato di rispetto al sottoscritto, perché io non ho mandato via nessuno, non ho mai detto a nessuno che mi dava fastidio, cioè a me non piace l'eco, io l'ho sempre detto questo, però se uno lo regola bene l'eco, basso basso, che si capisce quello che uno dice, a me non mi dà fastidio assolutamente. Magari hanno travisato quello che la persona gli ha voluto dire, non io, perché io non l'ho mai detto, non mi hanno dato via nessuno, sia ben chiaro. Magari qualche amico che era parlando con noi ha detto, ma io chi secco, magari gatto da vedi, mi dice che basta, ma di tutto sì, e si sono risentiti di questa frase qua, che questa persona avrà detto, non so neanche chi sia la persona, perché non ha voluto fare nomi, capito, questo qui, non ha voluto dire niente, se a me mi diceva chi era la persona, comunque c'è gente che, cosa vuoi ti dica? Che si è risentita per questo motivo. E allora facciano come gli piace, se ne vogliono andare a parlare sul 45, se ne vadano a parlare sul 45, io non seguo nessuno, io chi mi vuole sono qua, capito? Boh, a me mi sembra una cazzata, non sanno né cielo né terra. Se ad esempio capita che in frequenza poi le antipatie non devono esserci, io qualche volta ho ascoltato delle situazioni, ma non adesso, è proprio qualche anno fa, bisticciando al baracchino, ma te ne rendi conto bisticciando nell'aria, ma tu come fai a bisticciare il radio? Uno se vuole fare proprio un litigio, si trova di faccia a faccia, andiamo a trovarci in un posto e ridiscutiamo. Ma come si fa a stare lì a litigare per radio? Ma non te ne rendi conto che una cosa, invece stai tutti amici, tutti tranquilli, uno che sta dicendo, ma che non ti permette di dire queste cose, cioè stupidaggini, bambinaggini, fanciulli. Infatti, è quello che dico io, sono dei fanciulli, non sono degli uomini sigati di Grisci, perché cazzo uno che è sigato di Grisci non li fa dei cigosi. Eppure ci sono uomini grandi, cazzo, che lo fanno, si mettono a parlare male, cioè guarda, ne fanno di tutti i colori, quelli secondo me sono dei bambini, capito? Ecco cosa so. Cosa vuoi che ti dico? È tanto. Glielo dici una volta, glielo dici dopo, molta gente in gamba veramente, ha rinunciato a entrare, cazzo, perché ne sentiva di tutti i colori, cazzo, ma gente in gamba veramente, li hanno fatti scappare, cazzo, dai, batti fuggi, capito? Io, per carità, le cose devo sentire. Boh, io non lo so, ma probabilmente sono magari nuovi entrati che hanno dei comportamenti, ma è gente che si offende per nulla, interpretando male magari le parole, secondo che cosa si capisce una cosa per un'altra, e poi è chiaro che si arriva a questa definizione. Però vorrei concludere, ma perché la gente si offende se non capisci quello che dici? Ah, non lo so, lo dici. Purtroppo è così, si sono offesi, non so cosa, io non ho mai mandato nessuno via dal canale, assolutamente, non mi sarei mai permesso, quello sai come sono fatto io mi presto a tutto, sono gentile, lo sai come sono fatto, io no, sono me ne freghista, ai soldi non ci vado, quando ce li ho, cazzo, eppure sono stato trattato così, e la prova è evidente, lo vedi anche tu che non c'è nessuno, che ci siamo noi due, e basta, capito? E tu, no problem, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è così, ma sia Mesani di Ghio, e tanto è inutile parlare perché stiamo spaccando fiato e basta a parlare di queste cose, nel senso che intanto non c'è, magari stanno ascoltandomi, però non ti danno la soddisfazione di entrare, capito là? È quello il discorso. Vabbè, ma non lo so, se io credo che si aggiustano sempre le cose. Se uno ha capito male o ha interpretato male una frase detta così, magari innocentemente, magari che molte volte uno parla, butta una parola così e sta pensando ad altro. E non l'ha detta con, perché il suo proprio pensiero, parlando, sbaglia. Bisogna vedere però se questo è, lo chiamiamo sbaglio. E però chi ha ascoltato, se ha sentito, perché non riesce a capire il dialogo? È l'unica cosa, il dialogo. Uno dice sul proprio di persona, se si conosce, e dice ma guarda, l'altro giorno stavamo parlando, ma mai detto questo, ma sicuro di quello che stai dicendo? E così chiarisce, perché uno va ad arrabbiarsi, a far creare casino, non si presenta più, ho mandato via, pure alla frequenza uno può non essere mandato via, non esiste uno viene mandato via da un canale, ma se ne rendi conto, cioè viene mandato via uno quando comincia a dire parlarci, fa casino, eccetera, eccetera, allora gli si può dire di allontanarsi, altrimenti chiami e chi devi chiamare e lo controllano e poi sono cavoli sui. Però non può essere mandato via uno da una frequenza, oh, guarda in questa frequenza ci sono soltanto io, sono tutto, non devi andare. Ma dove sta scritto? Non in nessun libro e da nessuna parte una cosa del genere. Quindi uno può starci tranquillamente senza nessun problema. Se tu se ne hai voluto andare di sua spontaneità, quelli sono altri discorsi. A te. Infatti, visto che cosa vuol dire, io non mi piacciono le polemiche, non voglio discutere con nessuno, no, guarda, mi hanno costretto a odiare questa frequenza, non ci credi. Anche in questi giorni non ci stavo entrando proprio, ma non accenderlo il baracchino, nulla. Ma accendo così sì, a vedere se c'è un po' di propagazione. Tanto ero sicuro che non c'era nessuno qua. E quindi ho preso, me ne sono andato nella frequenza di chiamata internazionale, mi ha tolto qualche collegamento con l'estero, mi ha fatto, poi ho trovato gente molto simpatica dell'Italia e ci stiamo parlando, sei entrato anche tu quando stavo parlando. Quindi non c'è problema, non ci voglio entrare, non c'entri. Tanto io adesso mi sono ripromesso, gira entro solo il sabato e la domenica se ne ho voglia. Se non è voglia non ne accendo neanche, cosa me ne sbatto, tanto, per parlare col muro. Cioè, vabbè, comunque già si pacificano queste cose, perché tanto c'è quel detto che i monti non si contano con le persone serie. E prima o poi questa cosa si chiarirà, si arriverà a un incontro. Cosa dici poi? Cosa si trovi? A me è capitato una volta una persona, un ragazzo era, che stava parlando male, eccetera, eccetera. Sono detto che era suo a trovarlo, perché la radio era della mamma e lui modulava, faceva un sacco di programmi, eccetera, eccetera. Allora io sono preso, sono andato a casa sua e gli ho detto, signora, guardi il suo figlio, cosa sta facendo? Beh, lo sai che non hanno più modulato né lì né lui, si hanno venduto tutto. Alla fine si arriva agli estremi e rimedi, cosa vuoi che ti dica? Ma cosa vuoi? Guarda, queste cose mi fanno troppo incavolare, ma siccome io non mi posso incavolare perché mi fa male alla salute, per non incavolare mi faccio incavolare gli altri. E cioè, e la cosa vuol dire il, come dice quel proverbio, quando tu hai un locale, il peggio che gli puoi fare. Sì, sì, già ho capito, però vedi, io sono stato determinato in quel momento, perché questo ragazzo non è stato come hanno tutti colori, era un ragazzo prepotente, eccetera, eccetera, per non chiamare i carabinieri a fargli una perquisizione, una cosa, niente, io sono andato gentilmente, adesso ho parlato con la mamma, e lui ha chiuso, era troppo esagerato, stava facendo delle cose, capito, delle cose, diceva delle cose troppo... che non sapevano che c'erano in terra, ma non che se diceva stupidaggine, no, parlava male, stava sempre in merito, insomma non diceva tutto quello che... E alla fine è chiaro che uno interviene, ma a me mi è dispiaciuto, perché io sono un ragazzo, poi adesso è militare, nel paese è partito, siamo sotto ufficiale dell'esercito, sono partito militare, però caspita, l'ho trovato un paio d'anni fa qui vicino a me, in queste vicinanze, e mi ha salutato così, no? Come dire, cioè, erano altri tempi, ho forse sbagliato, ma c'era una specie di scusa, mi voleva invitare a bere, ho detto no, scusa, non bevo, sono astemio. E così per dirti, no, che quando sbagliano, poi ritornano, capito? Ehi, vabbè, cazzano quello che vogliono. Ah, guarda, hanno fatto scappare delle persone, cazzo, che mi è dispiaciuto un sacco che sono scappate delle persone, cazzo, veramente valide, che sono anche radioamatori tra l'altro, quindi non sono mucia di gioca. E gente in gamma veramente, che entrava qui anche a rischio di rimetterci la patente, cazzo, e tutto. E loro, cazzo, si permettevano di comportarsi in quel modo. Alla fine non ci sono entrati più, hanno visto che non ne valeva la candela e allora non sono più entrati. Cosa vuoi che ti dica? Ma entravano un sacco di amici miei che qua non potevano neanche entrare. Eppure entravano, ci facevamo il QSO, evidentemente il QSO che facevamo con quelle persone non gli garbava. E allora gli hanno fatti scappare. Ma ritorniamo sempre col discorso, evidentemente c'era un po' di fanciullezza, perché ricordo Natali, che la maturità non si raggiunge a 20 anni, a scuola probabilmente viene raggiunta, ma non è una maturità una maturità vera e propria, è una maturità come età di fanciullezza, la maturità. La maturità seria di una persona pacata, una persona di una certa età, eccetera, quella a 20 anni non si raggiunge. Per raggiungere la maturità proprio di un vero uomo è dai 40 anni in poi. Se uno è inferiore a quell'età vuol dire che sì, ahimè, potrei anche sbagliarmi, perché ce ne sono dei ragazzi a 25 anni che sono seri, eccetera, eccetera, però sono mosche bianche, sono pochissimi, e in frequenza mi pare che non lo so se ce ne sono. E infatti, oh, chi c'è magari fa di tutto per farsi odiare, perché è così. Non so di cosa debbano essere gelosi di me, boh, cosa vuoi che ti dica, però è capitato parecchie volte che magari io non sono simpatico a qualcuno e mi hanno fatto questi pezzi qua, se non peggio pure. Quindi, cosa vuoi che ti dica? Non penso di essermi mai comportato male, ma cosa vuoi che ti dica? Ma guarda, queste cose non succedevano agli inizi degli anni 70, non succedevano, poi io avevo mollato, ma a metà degli anni 80, nell'84-85, quando ripresi, praticamente uno, secondo come parlava, secondo come ti esprimere, di dicevi qualche cosa, diventava importante, succedevano questo fatto qua, non so se ti ricordi. Sì, anche senza contare le portanti, le cose, ma anche adesso che avevamo quattro gatti, le portanti c'erano, non si crede che... Io non lo so che tutto ci provano a mettere la portante a disturbare un QSO tranquillo, poi ne vadano negli altri canali a rompere le bolas, cosa vuoi che ti dica, ma purtroppo c'è gente che la pensa così, non sono sani di mente evidentemente, perché uno che è sano di mente non le fa certe cose, evidentemente sono degli handicappati. Sì, non sono handicappate, vogliono giocare in quel momento, non hanno voglia di parlare, allora si divertono a mettere la portante, ma la portante bisogna stare attenti come la metti, perché secondo come è messa uno potrebbe essere intercettato. E poi bisogna vedere anche un altro fattore di questa linea, perché quando metti la portante bisogna vedere se riesce a superarlo a chi mette la portante. perché chi è grande di età è grande anche di radio. Ehi, molte volte sì, e la loro giocano su quelli che non possono, capite? A me con la scusa che sono lontano, no? Che sono piccolino, non mi vogliono far parlare, molte volte mettono la portata. Sì, ma loro bisogna vedere quanti sono queste persone della portante. Io ad esempio, se dovessi mettere una portante potentissima, non disturbo nessuno, mi capisci quello che voglio dire? Mentre uno, quando vuole mettere la portante per disturbare, se è in città, poi si disturbi e allora non può aumentare molto. Ehi, infatti, ma vabbè, di tu, io ti lascio che vado a farmi un pisolino, sono già di qua per qualche cosa, non mi sono riposato niente, sono entrato così, tanto ma vi dici qui di qualche legnata, anche l'uno di bruna, e buh. Vabbè, tanto stasera non ci sarà nessuno, quindi è inutile che ti dia appuntamento stasera, perché non ci sarà nessuno lo stesso. Cosa volete dire? Poi vado a farmi un pisolino e boh. E io tra mezz'ora devo partire all'aeroporto, devo prendere mio fratello e quindi mi sto trattenendo ancora un pochino così perché ho ancora una mezz'ora di tempo a disposizione, ma se adesso devi andare all'aeroporto non ci sono problemi. E mi faccio una bella sonatina adesso con la tastiera, con la chitarra e così passo questa mezz'ora rilassato, tranquillo. Ma a proposito, mi sono ricordato adesso delle cose, ma ti ricordi quel file per la... ma non so dire in radio, per il codice, per la... come si chiama? Per il codice della... di quella roba là. Sì, che non lo ricordo, visto, infatti guardavo la posta ogni giorno ma non mi è arrivato assolutamente, non mi hanno risposto questi pezzetti. Mi sa che bisogna andare da quel concessionario lì e chiederglielo. Ci dobbiamo andare e basta. Già sono a posto già. Quindi essere in macchina e farsi quel viaggetto e via. E io al limite ci andiamo assieme, non c'è problema, visto. Andiamo assieme qualche giorno, ci portiamo un dischetto e via, a presto. E ce lo facciamo dare e gli diciamo dove possiamo reperirlo, eventualmente ne avessimo bisogno, ma che poi ce lo trasferiamo su un CD e rimane lì e quindi non lo perdi più. Capito, Vittorio? È quello che ti volevo dire. Vabbè, là, ci sentiamo domani o sabato prossimo, là, perché intanto nei giorni feriali mi sa tanto che non accendo, se non trovo nessuno. Nessuno, perché devi dire così? Ma guarda che lo sto facendo, io ad esempio domani non so che cosa farò, ma domani dopo pranzo che cosa devo fare? Non devo fare un cavolo, verso le 2:30, alle 3 lo accendo, poi se trovo qualcuno faccio chiamata, chi c'è? C'è Ciccia. Ah, beh, là. Ci sentiamo domani al limite. Ciao Vittorio Frussi, mi sono cambiato Kenny, mi sono. Sì, dai, buon riposo e buon tutto, invece ci sentiamo. Ciao, ciao. Bravo, ciao, ciao.